Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Come abbiamo detto, con il suo felice ritorno, Bazin aveva tolto solo in parte l'inquietudine che assillava i quattro amici. I giorni dell'attesa sono lunghi e D'Artagnan soprattutto avrebbe scommesso che i giorni avevano adesso 48 ore. Dimenticava le lentezze obbligate della navigazione, si esagerava il potere di Milady. Tale inquietudine era così forte che si comunicava a Porthos e ad Aramis. Athos soltanto restava impassibile, quasi che nessun pericolo si agitasse intorno a lui e che egli respirasse la sua solita atmosfera. Soprattutto il sedicesimo giorno, quei sintomi di agitazione erano talmente visibili in D'Artagnan e negli altri due amici che non potevano stare fermi ed erravano come ombre sulla strada per la quale doveva tornare Planchet. «Davvero», diceva loro Athos, «non siete uomini, ma bambini. Se una donna vi fa tanta paura, di che si tratta, dopo tutto, di essere imprigionati? Ebbene, ci caveranno dalla prigione. Hanno pur tirato fuori Madame Bonacieux, di essere decapitati? Ma tutti i giorni in trincea ci esponiamo allegramente a ben di peggio, perché una palla può fracassarci una gamba e sono convinto che un chirurgo ci fa soffrire di più tagliandoci la coscia che un carnefice tagliandoci la testa. Su, statevene tranquilli. Fra due ore, fra quattro, fra sei, al massimo, Planchet sarà qui. Ha promesso di esserci e io ho una fiducia straordinaria nelle promesse di Planchet, che mi sembra un bravissimo ragazzo. Ma se non arriva, disse D'Artagnan, ebbene, se non arriva avrà avuto qualche intoppo, ecco tutto. Può essere caduto da cavallo, può avere fatto un volo da un ponte, può avere corso tanto da essersi buscato una flussione di petto. Ah, signori, lasciamo che accada ciò che deve accadere. La vita è un rosario di piccole miserie che il filosofo sgrana ridendo. Siate filosofi come me, signori, mettetevi a tavola e beviamo. Niente dipinge l'avvenire color di rosa come guardarlo attraverso un bicchiere di Chambertin. Intanto la giornata trascorse e adagio venne la sera, ma venne finalmente. Le osterie si riempirono di clienti. Athos, che aveva intascato la sua parte del diamante, non abbandonava più il parpaillot. Aveva trovato in Monsieur de Busigny, che d'altronde aveva loro offerto un pranzo coi fiocchi, un avversario degno di lui. Giocavano pertanto insieme, come al solito, quando scoccarono le sette. Si sentirono passare le pattuglie che andavano a dare il cambio alle sentinelle. Alle 7:30 suonò la ritirata. «Siamo perduti», mormorò D'Artagnan all'orecchio di Athos. «Volete dire che abbiamo perduto?» disse calmo Athos, traendo di tasca 4 livres e buttandole sul tavolo. «Su via, signori», continuò, «ritiriamoci e andiamo a dormire». E Athos uscì dal parpaillot seguito da D'Artagnan. Aramis veniva dietro sotto braccio a Porthos. Aramis biascicava dei versi e Porthos si strappava di tanto in tanto qualche pelo dei baffi, segno di disperazione. Ma ecco che d'un tratto, nel buio, si profila un'ombra la cui sagoma è familiare a D'Artagnan e una voce ben nota gli dice: «Signore, vi porto il mantello, perché stasera fa fresco». «Planchet!» esclamò D'Artagnan, ebro di gioia. «Planchet!» ripeterono Porthos e Aramis. «Ebbene sì, Planchet!» disse Athos. «Che c'è da stupirsi? Aveva promesso di essere di ritorno alle 8 ed ecco che scoccano le 8». D'Artagnan aveva una voglia pazza di abbracciare Planchet al ritorno, come aveva fatto la partenza, ma temendo che quella manifestazione d'affetto verso il domestico in piena strada sembrasse strana a qualche passante, si trattenne. «Ho il biglietto», disse ad Athos e agli amici. «Sta bene», rispose Athos, Entriamo e leggiamo. Il biglietto scottava nelle mani di D'Artagnan. Voleva affrettare il passo, ma Athos gli prese il braccio, se lo infilò sotto il suo e il giovane fu costretto a regolare l'andatura su quella dell'amico. Finalmente entrarono nella tenda, accesero una lampada e mentre Planchet stava sulla porta perché i quattro amici non fossero colti di sorpresa, con mano tremante D'Artagnan spezzò il sigillo e aprì la lettera tanto attesa. Conteneva una mezza riga di una scrittura prettamente britannica e di una concisione spartana. Thank you, be easy. Il che significava grazie, state tranquillo. Athos tolse di mano la lettera a D'Artagnan, l'avvicinò alla lampada, vi appiccò il fuoco e non la lasciò finché non fu ridotta in cenere. Intanto Milady, pazza di collera, fremebonda sul ponte del vascello come una leonessa che venga imbarcata, aveva tentato di buttarsi in mare per raggiungere la costa perché non poteva adattarsi all'idea di essere stata insultata da D'Artagnan, minacciata da Athos e di lasciare la Francia senza vendicarsi di loro. Ben presto tale idea era diventata per lei così insopportabile che, a rischio di quel che poteva capitarle di terribile, aveva supplicato il capitano di sbarcarla sulla costa, ma costui, ansioso di uscire dalla sua falsa posizione, si trovava tra le navi francesi e inglesi che incrociavano tra le due coste, aveva una gran fretta di raggiungere l'Inghilterra e rifiutò ostinatamente di obbedire a ciò che gli riteneva un capriccio di donna, promettendo alla passeggera, d'altronde raccomandatagli in modo speciale dal cardinale, di sbarcarla, se il mare e i francesi glielo consentissero, in uno dei porti della Bretagna, sia a Lorient che a Brest. Ma intanto il vento era contrario, il mare cattivo e perciò bisognava indugiare e bordeggiare. 9 giorni dopo essere usciti dalla Charente, Milady, pallida per il dispiacere e per la rabbia, vedeva appena profilarsi le coste azzurrine del Finistère. Ella calcolò che per attraversare quell'angolo della Francia e tornare dal cardinale le occorrevano 3 giorni almeno. Aggiungete 1 giorno per lo sbarco ed erano 4, aggiungete quei 4 ai 9 altri, erano 13 giorni perduti, 13 giorni durante i quali potevano accadere a Londra tanti avvenimenti importanti. Pensò che senza dubbio il cardinale sarebbe furibondo del suo ritorno e di conseguenza più incline ad ascoltare le accuse di qualcun altro contro di lei piuttosto che le accuse di lei contro altri. Lasciò quindi passare Lorient e Brest senza insistere con il capitano, il quale, dal canto suo, si guardò bene dal metterla sull'avviso. Milady continuò pertanto la sua strada e il giorno stesso in cui Planchet si imbarcava da Portsmouth per la Francia, la messaggera di sua eminenza entrava trionfante nel porto. Tutta la città mostrava una straordinaria animazione. 4 grandi vascelli ultimati di recente erano appena stati varati. Ritto sulla gettata, gallonato d'oro, sfavillante secondo la sua abitudine di diamanti e di pietre preziose, con il feltro ornato da una piuma bianca che gli ricadeva sulla spalla, si vedeva Buckingham, circondato da uno stato maggiore splendido quasi quanto lui. Era una di quelle belle e rare giornate invernali in cui l'Inghilterra si ricorda che esiste un sole. L'astro già pallido, tuttavia ancora fulgente, tramontava all'orizzonte, imporporando al tempo stesso il cielo e il mare con striature di fuoco e gettando sulle torri e sulle vecchie case della città un ultimo raggio dorato che faceva scintillare i vetri come il riflesso di un incendio. Milady, nel respirare quell'aria dell'oceano più pungente e più balsamica, nel contemplare tutta la potenza di quei preparativi, che aveva l'incarico di distruggere tutta la potenza di quell'armata che lei sola, una donna, doveva combattere con un pugno d'oro, si paragonò mentalmente a Giuditta, la terribile ebrea, allorché penetrò nell'accampamento degli Assiri e vide l'enorme massa di carri, di cavalli, di uomini e di armi che un gesto della sua mano avrebbe dissolto come una nube di fumo. La nave entrò nella rada, ma mentre ci si preparava a gettare l'ancora, un piccolo cutter, formidabilmente armato, si accostò al mercantile dichiarandosi un guardacoste e calò in mare un canotto che si diresse verso la scaletta. Dentro c'erano un ufficiale, un sottonostromo e 8 rematori. L'ufficiale salì a bordo solo e qui fu ricevuto con tutto il rispetto che suscita l'uniforme. Quando entrarono nel porto era già buio. La nebbia infittiva ancora l'oscurità e formava intorno ai fanali, alle lanterne delle gettate, un alone simile a quello che circonda la luna quando il tempo minaccia di volgere alla pioggia. L'aria che si respirava era triste, umida e fredda. Milady, quella donna così forte, si sentiva rabbrividire suo malgrado. L'ufficiale si fece indicare i bagagli di Milady e li fece portare nella scialuppa. Terminata che fu quell'operazione, la invitò a scendervi, porgendole la mano. Milady guardò quell'uomo e esitò. «Chi siete, signore?» chiese, «che mi fate oggetto di così particolari attenzioni. Ve lo dice, signora, la mia uniforme. Sono ufficiale della Marina inglese», rispose il giovane. «Ma, insomma, è consuetudine che gli ufficiali della Marina inglese si mettano agli ordini delle loro compatriote quando toccano un porto della Gran Bretagna e spingano la galanteria fino a condurle a terra. Sì, milady, è consuetudine, non per galanteria ma per prudenza, che in tempo di guerra gli stranieri siano condotti a una certa locanda perché rimangano sotto la sorveglianza del governo finché non si abbiano informazioni precise sul loro conto. Queste parole furono pronunciate con la più impeccabile cortesia e con l'imperturbabilità più assoluta. Tuttavia non ebbero il potere di convincere Milady. «Ma io non sono straniera, signore», disse con il più puro accento che abbia mai risuonato da Portsmouth a Manchester. «Mi chiamo Lady Cleric, e tale misura è generale, milady, e tentereste inutilmente di sottrarvi ad essa. Allora vi seguirò, signore». E accettando la mano dell'ufficiale cominciò a scendere la scaletta in fondo alla quale aspettava la scialuppa. L'ufficiale la seguì. Un ampio mantello era steso a poppa. L'ufficiale la fece sedere su di esso e si sedette accanto a lei. «Remate!» ordinò ai marinai. Gli 8 remi ricaddero in mare all'unisono ed un colpo e la scialuppa sembrò volare sulla superficie dell'acqua. Nel giro di 5 minuti si toccò a terra. L'ufficiale balzò sulla banchina e offrì la mano a Milady. Una vettura aspettava. Un'accoglienza così strana doveva offrire a Milady ampia materia di riflessione, vedendo inoltre che il giovane ufficiale non sembrava per nulla disposto a intavolare una conversazione. Ella si accomodò in un angolo della carrozza e passò in rassegna le une dopo le altre tutte le congetture che le si affacciavano alla mente. Tuttavia, dopo un quarto d'ora, stupita di un così lungo percorso, si chinò allo sportello per vedere dove la conducevano. Le case erano scomparse. Nelle tenebre apparivano degli alberi come grandi fantasmi neri ricorrentisi gli uni dopo gli altri. Milady rabbrividì. «Ma non siamo più in città, signore», disse. Il giovane ufficiale si mantenne silenzioso. «Non andrò più oltre, se non mi dite dove mi conducete. Ve ne avverto, signore!» La minaccia non ottenne alcuna risposta. «In nome del cielo, signore, ditemi, è a voi o al vostro governo, o a un nemico, che devo attribuire la violenza che mi viene fatta?» «Non vi viene fatta violenza alcuna, signora, e quanto vi succede è il risultato di una misura semplicissima che siamo costretti a prendere con tutti coloro che sbarcano in Inghilterra. Allora voi non mi conoscete, signore. È la prima volta che ho l'onore di vedervi. E sul vostro onore non avete alcun motivo di odio contro di me. Alcuno, ve lo giuro. C'era tanta serenità, tanta calma, perfino tanta dolcezza nella voce del giovane che Milady ne fu rassicurata. La carrozza attraversò due anditi a volta e infine si fermò in un tetro cortile quadrato. Quasi subito si aprì lo sportello. Il giovane balzò agilmente a terra e porse la mano a Milady che, appoggiandovisi, scese a sua volta con discreta calma. «Comunque sia», disse, volgendo gli occhi intorno e riportandoli sul giovane ufficiale con il più affascinante dei suoi sorrisi, «eccomi prigioniera, ma non sarà a lungo, ne sono certa», aggiunse. «La mia coscienza e la vostra cortesia, signore, me ne sono garanti». Per quanto il complimento fosse lusinghiero, l'ufficiale non rispose sillaba, ma traendo dalla cintura un fischietto d'argento simile a quello di cui si servono i sottonostromi sulle navi da guerra, fischiò tre volte su tre modulazioni distinte. Comparvero allora parecchi uomini che staccarono i cavalli fumanti e portarono la carrozza in una rimessa. Poi l'ufficiale, sempre con la stessa calma cortese, invitò la prigioniera a entrare nella casa. «In nome del cielo, signore!» esclamò. «Che significa tutto ciò? Mettete un termine alle mie incertezze, io ho coraggio di fronte a qualsiasi pericolo che prevedo, di fronte a qualsiasi disgrazia che capisco, dove sono e che cosa sono qui. Se sono libera, perché queste sbarre, queste porte? Se sono prigioniera, quale delitto ho commesso?» «Voi siete qui nell'appartamento che vi è destinato, signora. Ho ricevuto l'ordine di andarvi a prendere in mare e di condurvi a questo castello. Quest'ordine, credo, l'ho eseguito con tutto il rigore di un soldato, ma anche con tutta la cortesia di un gentiluomo. Qui finisce, almeno per ora, l'incarico che mi è stato dato relativamente a voi. Il resto riguarda un'altra persona». «E quest'altra persona chi è?» domandò Milady. «Non potete dirmene il nome?» In quel momento si udì per le scale un forte tintinnare di speroni. Passarono alcune voci e si spensero, e il rumore di un passo isolato si avvicinò alla porta. «Questa persona, eccola, signora», disse l'ufficiale scoprendo il passaggio e mettendosi in disparte in un atteggiamento di rispetto e di sottomissione. In pari tempo la porta si aprì. Sulla soglia comparve un uomo. Era senza cappello, portava la spada al fianco e spiegazzava tra le dita un fazzoletto. A Milady parve di riconoscere quell'ombra nell'ombra. Si appoggiò con una mano sul bracciolo della poltrona e sporse la testa in avanti come per andare incontro a una certezza. Allora l'estraneo avanzò lentamente, e via via che avanzava, entrando nel cerchio della luce proiettata dalla lampada, Milady indietreggiava involontariamente. Poi, quando non ebbe più dubbi, esclamò al colmo dello stupore: «Cosa? Mio cognato? Siete voi?» «Sì, bella signora», rispose Lord Winter con un saluto tra cortese e ironico. Proprio io. Ma allora questo castello mi appartiene. Questa stanza è la vostra. Allora sono vostra prigioniera, pressa poco. Ma è un odioso abuso di forza. Niente parole grosse. Sediamoci e discorriamo tranquillamente come si conviene tra cognati. Poi, volgendosi verso la porta e vedendo che il giovane ufficiale aspettava i suoi ordini, «Sta bene», disse, «vi ringrazio. Adesso lasciateci, Mr. Felton».